da quando Benuzzi è andato in pensione. Sì. Stavo per dire pace all'anima sua, ma sarebbe stato no, un po' informissima. No, infatti andare in pensione, ah beh, senza Fedra non ha senza ascoltarti, scrive il nostro unico ascoltatore Oscar Moroni, vabbè, puoi spegnere oppure metti su 105, non lo so. E qua invece siamo naturalmente sempre su Radio Città Fujiko in questa versione non natalizia. È aperto, tu sei sempre aperto. No, non lo so, se hai bisogno di spegnere il microfono là c'è un pulsante grigio, spegni il pulsante grigio, però poi devi urlare perché io sto ascoltando la radio in cuffia. E invece Giulia da pochissimo, ma da un po' che bello il tappo di WhatsApp. No, tu hai finito l'Accademia un sacco di tempo fa. Sì, qualche anno fa, nel 2012. Il tempo passa per tutti. E così. E dunque, Leonardo. No, mi diceva Giulia che ha fatto da Davide, no? Scultura. Ha fatto scultura con Davide. E mi stava facendo vedere delle bellissime cose, delle sculture che ha portato al museo Carlo Zauli di Faenza. Esatto. E sono ancora su. Sono su fino al 18 di dicembre. Al 18 di dicembre, sì. Per cui abbiamo tempo di andarla a vedere. Perché io, ahimè, ho mancato l'inaugurazione, pur avendola forse menzionata a Corso Spaziale, forse no, non mi ricordo obiettivamente, perché anche le menzioni sono un disastro. E invece tu, Leonardo, che cosa c'hai? No, io adesso abbiamo una collettiva presentata da Pasquale Fameli, organizzata dalla Irene Zangheri, mm-hmm. Dal titolo 115. Perché ed è presso la caserma, il 115 è il numero per la chiamata dei vigili del fuoco. Ah, giusto. È una mostra fatta che abbiamo inaugurato, che c'era per Santa Barbara pochi giorni fa. Mm-hmm. Uno dovrebbe ed è una mostra sui vigili del fuoco. No, è fantastico, infatti voglio venire a vederla assolutamente, soprattutto per vedere una caserma. Sì, penso ci sarà una... Ma è aperta al pubblico? Cioè uno può andare... Sì, però ci sarà una rinaugurazione, penso il 22 gennaio, in occasione di Arte Fiera. Ah, adesso stanno okay. organizzando il tutto com'è. Così, una doppia, perché poi ci saranno un po' di inaugurazioni, sì, attorno ad Arte Fiera. Cosa fai tu, Giulia, durante Arte Fiera? Ma sicuramente devo mettermi un paio di scarpe comode ai piedi, perché ci sarà tanto da camminare. Infatti, quest'anno la vedo dura io. E tu, Leonardo, hai già a parte la seconda inaugurazione dei pompieri, ma è la caserma quella là in Corticella, quella grande? Sì, vicino. Fantastico. Al carcere della Dozza, esatto. Dalla parte opposta. No, è quella lì, mi ha sempre affascinato, secondo me potrebbe essere interessante come... Sì. Ma le opere sono dovunque, come le avete allestite? Sono messe nell'aula magna perché sono due mostre, una mostra fotografica sull'esplosione di Marano, sono tutte una fotografie in cui c'è stato un intervento dei vigili del fuoco. Mm. E invece le opere che sono sia di... ci sono delle sculture, delle pitture, eccetera. Siamo 14 artisti, diciamo, da tutta Italia. Senti che musichetta che ti ho messo dietro, è completamente casuale, io ho messo delle musiche senza voce a random e niente, adesso invece ti metto una canzone. È uscito un nuovo pezzo di nuovo di Jenny Owen Youngs, ultimamente ne sta sfornando uno dietro l'altro, e siccome io sono un grande fan ve lo faccio sentire subito, si chiama Maybe Next Year. Boxes and bows, crossing my fingers and wishing for snow. Honestly, I don't know where the time goes. Cut down an evergreen, brought it inside, made it a Christmas tree, strung all the lights, popcorn and cranberries, friends and our family, gold in the glow of the fire. Haven't seen you in a while. Hope you're alright. Wish you were here. Maybe next year. vorrei essere Fabio Di Camillo e anch'io ascolto Coxo Spaziale. Lo conosci Fabio Di Camillo? No, nessuno di voi due conosce Fabio Di Camillo. È un allestitore, è bravissimo, però è così. Ascolta anche lui Coxo Spaziale, naturalmente. Bentornati. E no, in realtà, Leonardo, noi siamo qui. Il nesso per cui ti sei fatto invitare a Coxo Spaziale. Scherzo, naturalmente, non aspettavo altro anzi, ti ho dovuto pregare per riuscire a trovare un lunedì libero in cui potevi venire a parlarci dei tuoi libri. Che cosa sono questi libri che ci hai portato? Sono dei libri che è frutto della collaborazione col poeta Ezio Alessio Gensini, ed è un'amicizia che è nata grazie al cantautore Roberto Ferri, che è l'autore, forse non vi dice niente, però è l'autore della canzone, dei testi di E dimmi che non vuoi morire di Patti Bravo. Ok. E ha fatto anche tantissime altre canzoni, ha vinto dei Sanremo, eccetera. Okay. Che lui è stato operato. Io sono amico di Facebook suo. Di Roberto Ferri, sì. Sì, e lui praticamente è stato qualche anno fa, è stato trapiantato di fegato. Di fegato? Ah, ok. Di fegato. E allora lui ha dedicato tutte le sue energie per la causa, per la donazione degli organi. E lui ha fatto un primo album, quello Com'è profondo il mare, con l'interpretazione di Dalla, c'era Massimo Ranieri, c'era Carbone, dopo poi parleremo tantissimi cantanti. Di Lucio, tuo amico, poi ne parleremo. Sì, non lo so, dopo sentire anche Giulia. Assolutamente, perché c'è troppo da raccontare, sì. Su Lucio, ok. Sì, dopo. E questo, dopo questo lui mi aveva invitato tramite l'amico Otto, che era Andrea Salvato, il tecnico del suono di Lucio Dalla, a illustrare il secondo audiolibro che ha fatto per la donazione di organi. Poi da lì, in amicizia con Gensini, abbiamo cercato di fare. All'inizio abbiamo fatto tre calendari con la partecipazione di cantanti, di cantautori, attrici, attori, eccetera. Il primo e il secondo. Il terzo abbiamo fatto un solo foto di Carlo Bellincampi, che è il poeta delle dive di Roma, quindi sono quasi tutte attrici. Poi dopo questi calendari, per cui il provento è tutto in beneficenza, siamo potuti riuscire a comprare un puntatore ottico per un ammalato di SLA di Borgo San Lorenzo. E poi il secondo calendario, i proventi sono andati all'associazione Piccini Picciò dei nati prematuri dell'ospedale di Careggi, e il terzo altre donazioni che abbiamo fatto. Mm-hmm. I primi calendari erano tutti i calendari erano con l'ausilio dell'associazione donatori di sangue di Scarperia. Dopo questi calendari abbiamo pensato di fare dei libri sui temi sociali. Il primo libro è sul succo di melograno, sul tema del femminicidio. Il secondo è stato quello sul bullismo. Mm-hmm. E il terzo, che si intitola Pugni chiusi, e il terzo, Uomini, donne e bambini, sui migranti. Tutti e tre i libri sono editi dalla Regione Toscana e scaricabili gratuitamente dal sito della Regione Toscana. Ma e gli autori di questi, cioè che cosa c'è scritto? Gli autori sono tantissimi, perché sono praticamente, il sottotitolo è tipo Il femminicidio, punti di vista visti da punti diversi, un contributo a cambiare per cambiare. E sono tantissimi autori, sono oltre 20. Mm-hmm. C'è dall'avvocato alla casalinga, dall'attrice al cantante, così via. Quindi sono tutti libri, sono interventi corali. Ho capito. E le copertine? Le copertine sono tratte, i libri sono composti, sono illustrati da me. Il primo, Femminicidio, erano delle fotografie e dei volti, praticamente solo volti di donne pestate a sangue, però se li vedete così non, cioè se uno ha la possibilità di vedere il quadro non riesce a capirlo bene come, okay, come una... Adesso pubblicheremo qualche foto su www.coxospaziale.blogspot.com. Nel frattempo mi dice sempre quello che doveva cambiare canale, non ha cambiato, Oscar Moroni, che ho detto Cosso Spaziale anziché Coxo Spaziale, allora mi scuso con gli ascoltatori attenti alla mia pessima dizione. No, continua. Invece è stato bello che mi ha invitato così, perché siccome sono anche molto col fatto che come insegnante così, mm-hmm, questo abbinamento, ho avuto modo di parlare con Giulia Bonora, che mm-hmm, è di Ferrara, sì, e che mi diceva che abita a Bologna. Sì, certo. E quindi stavo vedendo anche le sue opere, cose. Hai visto? Eh beh, certo, siamo qui anche per parlare di questo, perché Giulia soprattutto lavora con la ceramica, sì, giusto? Sì. No, anzi, fra l'altro, prima che mi dimentichi, cioè tu sei stata in un posto assurdo in Cina che si chiama? Jinzhen. Cioè lei è stata a Jinzhen tipo una settimana? Due settimane. No, mi ricordo che era una roba velocissima. Sì. No, raccontami subito di questa cosa qua. Ma di allora, questa residenza. È stato insomma due settimane quest'estate, ho deciso di partire da sola, okay, e di andare a visitare questo posto, perché tutti mi hanno parlato come un posto magico per chi fa in particolare la porcellana. Ah, porcellana, perché è tipo la capitale della porcellana, sì, in Cina. Lì, no? È nata la porcellana. Ah, addirittura lì è nata. Perché c'è una montagna. No, no, perché effettivamente porcellana in inglese si dice China, e si dice China proprio perché è nata in Cina. Quindi è un posto pazzesco, dove sembra di tornare indietro nel tempo, dove ci sono questi artigiani che lavorano tutto il giorno e sono specializzati in un'unica mansione, quindi c'è chi fa solo calchi, mm-hmm, c'è chi invece fa, non lo so, decoro, disegno sulla ceramica, e sostanzialmente è un posto pazzesco per gli artisti. Hanno un'area molto bella dove hanno una residenza anche, e è un centro dove hanno praticamente un museo e spazi espositivi, quindi è un posto pazzesco, sì. Fantastico. E dunque che cosa hai combinato? Ma in realtà ho combinato che ho sperimentato un po' dei loro materiali. Io ero ospite in uno studio di questo artista cinese istituzionale, però non chiedermi il nome perché penso che sia impronunciabile. Lo scriviamo sul nostro blog. E stando lì, insomma, loro mi hanno ospitato e ho vissuto con loro una settimana, un po' tipo casa famiglia, insomma. Fantastico, ma avevi un traduttore? Avevo un traduttore, okay. Sì, la sua figlia, che anche lei fa l'artista, era con lei che mi portava in giro. Ah, fantastico. Parlando inglese, cioè parlando cinese, traducendo per me, perché insomma non... Ah, certo, no, perché effettivamente in Cina è tosta parlare, sì, parlare qualunque altra cosa che non sia il cinese. Sì, sì. Bello. Però è stato veramente pazzesco, sia il viaggio ma l'esperienza. E poi alla fine le ceramiche che ho fatto, la cosa più divertente è stata impacchettarle e infilarle nel trolley e portarsele a casa nel bagaglio a mano. Ah, fantastico. E scoprire di non poter portare così tanto peso sull'aereo, che alla fine ho dovuto tipo cambiare i pezzi, metterli nello zaino, e alla fine mi hanno fatto salire. Sono stati carini. Bello. Sì, anche perché poi appunto cioè quando vedi i cinesi nel check-in in Italia comunque con queste valigie più grandi di loro, sono abbastanza... ho capito. Bella sta cosa, molto. No, ti ho passato la palla subito a Giulia, perché mi interessava, perché avendo fatto il lavoro con la ceramica di Faenza, no? Io ho studiato all'Istituto d'Arte di Ceramica a Sesto Fiorentino. Ah, che ero che maestro d'arte per il Gres, quindi sì, ero affascinato vedendo queste cose che lei ha fatto. Perché tra l'altro poi anche il Museo Dauli fa qualcosa lì, no? Adesso sì, non mi ricordo di sì, preciso, però ho visto che c'è uno scambio tra Faenza, sì, e Sesto Fiorentino, se non sbaglio. Ma infatti ieri sera, leggendo un po' su internet, perché mi sono un po' informata su Leonardo, detto, la prima cosa che questo? Mi è comparsa è appunto la sua formazione. Ho detto, caspita. Ma poi visto? Ho scoperto, mentre insomma, che abbiamo un'altra cosa in comune, cioè aver fatto un libro sul femminicidio. Ah, vedi? Qualche anno fa con un'altra mia amica artista, vero, che si certo, chiama Silvia Camani, poi te l'ho fatto vedere. Abbiamo fatto questo libro di favole illustrate che abbiamo fatto io e lei, insomma, le abbiamo scritte illustrate e poi lo abbiamo stampato con un crowdfunding. È vero, mi bello, ricordo il crowdfunding. Quindi c'è qualche... Così. Già due. Io invece due. Ceramica Io ho ucciso un paio di donne, per cui sono... scherzo. Il femminicidio è tostissima. Adesso, no, fra l'altro, appunto, adesso no. Il motivo per cui le. No, la cosa curiosa è che quando abbiamo fatto il libro Succo di Melograno, noi abbiamo chiesto la partecipazione a oltre 20-25 donne e non tutte ci hanno risposto, neanche la metà. Mentre abbiamo richiesto a tutti gli uomini che l'abbiamo chiesto un intervento, tutti gli uomini hanno scritto. Interessante. Quindi era una cosa che veniva fuori quando si presentava il libro. E stai ascoltando Coxo Spaziale. Ti ho interrotto, scusa. Ma è Cesare. C'era. Guarda che la pubblicità ha 3 minuti. Ecco, okay, grande. No, mi fa piacere perché di solito c'è Fedra che mi ricorda che, no, che fra due, un po' c'è. 2 minuti e 30. In realtà questo computer fa i 25, anche il mio fa i 25, anche però gli orologi sono tutti diversi. Ci sono tantissimi, lo so. Comunque 333-180-94-94 se avete delle domande per i nostri fantasticissimi artisti che sono Leonardo Santoli e Giulia Bonora. Beh, qua scrive: è stato in Cina a comprare le ceramiche fatte dai bambini. Ah, no, ok. Ecco, il nostro GIF come al solito scrive delle cose irripetibili, tipo che appunto sei andata a comprare della ceramica già fatta, hai fatto finta per poi rivenderla, ma sì, anche perché poi fra l'altro tu hai una pletora di collezionisti enorme, certo, che mi aspettano davanti alla porta di casa. Infatti. E tu, Leonardo, che cosa stai dipingendo di bello? So che dipingi cose... Ma adesso stiamo preparando, non posso dire in anticipazione, ma stiamo lavorando a un libro che è già praticamente il quarto libro con un'altra regione. Per cui tu dipingi solo delle copertine praticamente? Sì, praticamente. Le gallerie sono morte, private, purtroppo. Con questo mi attirerò. Non sono morte, sono morti i galleristi che lavoravano con te, ma succede. Scherzo, naturalmente, però voglio dire. Anch'io ero io lavoravo con 3 gallerie che hanno chiuso una dietro l'altra, per cui sì, la quarta l'ho mandata a chiudere. Sì, la Cavalieri aveva chiuso, la Severi si è trasferita. Un po'. Vabbè. Tanti anni, la Cristofori morta. Succede. Una puntata allegra questa. perché comunque tu è da tanto che sei a Bologna, no? Io sono fiorentino di nascita, e infatti ho fatto il studio d'arte a Sesto Fiorentino, e poi sono venuto a Bologna. Avevo 16 anni. E dopo qua ho finito degli studi e poi sono passato all'Accademia di Belle Arti. Con chi l'hai fatta l'Accademia? L'Accademia, allora, la prima persona, il primo pittore, non è stato, il concetto è stato dopo tre mesi era adesso non mi ricordo, mi scappa il nome, era il pittore della solitudine. Il pittore della solitudine, chi è? Turner? No. Un pittore molto reazionario, fra virgolette. Venturelli. No. Adriano Venturelli è arrivato dopo. Reazionario, ho pensato a Venturelli. No, era uno che è interpretato da giovane Raffaello, allora. Ok. Porca mia, guarda, ho proprio un vuoto, ne parlavo proprio ieri. Però diciamo, il primo, diciamo, concetto Pozzato. Con me in accademia i nostri compagni di classe c'era tipo Angelo Celeste, Omar Galliani, Aurelio Bulzatti, la Paola Gandolfi, l'Alessandra Bonoli, che è un artista, fa sculture lì, no? di Faenza, e Montini, c'erano diversi, insomma, che poi hanno fatto... Ha detto... Scrive Giffo, ha detto fiorentino di nascita questo. E poi mi dice siete andati dallo stesso logopedista da piccoli. ed effettivamente ha ragione. Diciamo che ci unisce, no, poi la curiosità è anche perché io ero figlio di ragazza madre, quindi il mio nome è Santoli, ma molti, io ho fatto l'Accademia delle Arti con un cognome che è Tilly, aveva il nome della mamma, quindi tanti compagni di che ho fatto il primo anno, il secondo anno, mi sento sempre che Tilly, io ho cambiato cognome a 18 anni, quindi ho fatto 2 anni l'Accademia delle Arti con un cognome e l'ho finito con un altro cognome, cioè, è anomalo per renderti la vita più, facile, capisco. Molto bene, direi che è ora delle pubblicità della mezza e così, allora vi abbasso. Vuoi sentire i sapori e i profumi di una volta? Vuoi scegliere tra i migliori vini locali. Ed eccoci tornati in onda, yeah! E adesso non sto a leggere i messaggi fantastici di Giffo, che salutiamo, anzi salutiamo anche Franco Grilli che ci sta ascoltando e anche naturalmente Riccardo Lolli che si è ripigliato adesso, anzi non dimenticatevi di ascoltare giovedì alle 23 uova sode e noci. Stavo per dire Gorgonzola e noci, che è la mia pizza preferita, invece no, il suo programma si intitola uova sode e noci, anzi è così, hai capito. E no, mi raccontavi un po' dei tempi dell'Accademia. Dopo l'Accademia sei rimasto a Bologna, cioè tu hai finito l'Accademia. Ma dopo l'Accademia ho iniziato quasi subito a fare il tour. Sì, 82-83 penso, con il pittore Angelo Celeste. Noi avevamo il professore nostro di fenomenologia dell'arte contemporanea, Giorgio Cortenova. Ah, è certo. Giorgio Cortenova cominciò a seguire dei giovani e costituì un gruppo che lo chiamò Astrazione Arcaica. E quindi è un gruppo che è scomparso dalla faccia della terra. Cioè, se tu cerchi su Google non viene fuori, il risultato è zero. E penso che abbiamo fatto delle mostre alla Galleria d'Arte Moderna di Verona, all'Arte di Milano, cose importanti. No, comunque sì, cataloghi editi da Mazzotta, uscite delle recensioni di Quinta Valle sul Panorama. Dopo questa esperienza, un mio collezionista che era divenne Lucio Dalla in questo periodo 86-87, che dici, conoscevo dai tempi dell'Accademia, dici niente, collezionista d'eccezione, e lì facemmo un esperimento. Io penso sia stato uno dei primi, come prima ancora che dopo che facesse con Mimmo Paladino. E quindi 87-88, dopo una mostra alla galleria a Palazzo dei Diamanti, penso forse cos'era, Palazzo Massari, quello dei giovani che davano. Sì, il PAC, no, di fianco al PAC di sì, facemmo un, fece una personale, venne, si ripreso un quadro e gli dissi: mi scrivi, siccome lui scriveva qualcosina sul Corriere della Sera, gli dissi: Lucio, mi scrivi un pezzettino su. Gli disse: ma scusa, perché ti devo scrivere? Cioè, io sono un cantante, ti compongo una musica. Wow. E allora sui quadri ha composto una musica di circa 7 minuti. E questo esperimento, grazie ad Alessandra Borgogelli, che salutiamo, che è una bravissima critica, che ci siamo un po' persi di vista, però insomma è una che devo tanto. Ok. E facemmo una mostra alla Galleria Raffaelli di Trento, alla Galleria Andrea Murnik di Milano e alla Galleria Helmut Liger di Monaco, di Baviera. Hai capito? E partimmo così con questo esperimento. Tu parlavi, no, quando c'era quell'immagine che vedevi su Flash Art, su questo esperimento. Un attimo dove sei diventato, eri una stella. Anzi, mi ricordo delle, ricordo la Arte Fiera, adesso non mi ricordo, forse dell'87-88, dove c'erano questi quadri enormi. Dalla Cavaliere. Esatto. Sì. Bravo. Deve essere stato bello, ma hai guadagnato tantissimo in quegli anni. No, purtroppo. Purtroppo le hai anche spesi dopo, immagino. E dunque, quello che dobbiamo fare è questa cosa qua adesso, che si chiama così: l'angolo della menzione. Ovvero, della durante... Ecco. E durante l'angolo della menzione cosa succede? Succede che... succede cosa... Aspetta che vi abbasso così potete parlare tranquillamente. Ecco, no, dicevo, nell'angolo della menzione quello che succede è che io menziono quello che succede questa settimana, e questa settimana inaugura mercoledì 11 dicembre alle 11 e rimarrà visibile al Museo del Patrimonio Industriale, al Museo del Patrimonio Industriale di Bologna fino al 10 maggio 2020. Noi siamo la Minganti, Bologna e il lavoro industriale tra fotografia e memoria. La mostra, realizzata in occasione del centenario delle officine Minganti, racconta la storia della fabbrica bolognese come luogo del lavoro e della produzione, accostando un'ampia selezione di fotografie d'epoca e una raccolta di materiali documentati. Questo è al Museo del Patrimonio Industriale in via della Beverara 123. E naturalmente, dicevo, naturalmente su coxospaziale.blogspot.com troverete tutti i particolari di questa mostra. Invece il 12 dicembre, che se non sbaglio è mercoledì, c'è l'opening di Vaticana, questo moving studio di Andrea Renfini e Silvia Spada, che inaugura alle ore 18 ad Alchemilla, a Palazzo Vizzani, in via Santo Stefano 43, e sarà aperto fino al 15 dicembre. Sempre mercoledì 12 dicembre, una mostra collettiva intitolata Mostra Omaggio Tributo a Roberto Vitali, sempre alle 6, con opere di Wanda Benatti, Bruno Sullo, Petti Zanelli, Barbara Ciciliato, Pier Giovanni, Roberta Fanti, Marco Ara, eccetera, eccetera, eccetera. Manca giusto Anna Bosca, no, c'è anche Gianfranco Sacchetti, Manuela Candini, e di nuovo sempre su coxospaziale.blogspot.com troverete tutti i particolari di questa mostra. Puoi parlare, vi ho rialzato. Grazie. E penso ci sia anche Totò Cariello che gestisce, che è uno... c'è anche Totò Cariello, Claudio Rosi, Benedetta Iandolo, anzi salutiamo anche Benedetta Iandolo, che anche lei è stata mia professoressa, sai? Simpatica, no? Benedetta. Potrei chiamarla a Coxo Spaziale. Ok. Sì. E basta, questa è finita l'angolo della reazione. Sì, primo gennaio, poi ci sono cose che poi deve dire Fedor. Invece, Stefano, ero ancora curioso, no? Sì. Sulla Giulia, ma al museo Carlo Zauli, no? Come ci sono finita? Sì, e con che opere? Allora, il progetto, allora, Carlo Zauli, il museo Carlo Zauli organizza delle residenze d'artista, quindi tutti gli anni ospita artisti di fama internazionale. Io in pratica l'anno scorso ho fatto un concorso che si chiama Open to Art, che è un concorso di ceramica organizzato da Officine Saffi, che è una galleria di Milano, e sono riuscita ad arrivare in finale e a vincere uno di questi premi che consisteva appunto nella residenza al Museo Carlo Zauli. E quindi quest'estate, durante i caldi estivi, sono stata una settimana in residenza da loro ed è stata un'esperienza fantastica, perché lì loro hanno... Eri da sola o...? Ero da sola, però devo dire la verità che mi sono trovata molto bene a lavorare, non solo dal punto di vista della ceramica, insomma, poi Faenza offre tantissime possibilità, ma anche dal punto di vista umano, cioè l'esperienza umana della residenza. E poi la mostra è inaugurata il 17 ottobre e insieme siamo tre artiste, cioè Chiara Camoni, Arianna Carossa e i lavori. E tutte e tre sono state in residenza quest'anno al Carlo Zauli. E quindi i lavori che ho fatto sono tutti lavori a Colombino, che è questa tecnica super arcaica. Ah, è arcaica come tecnica? Sì, è quella che tu fai tipo... per far partire... Sì. No, fai le salsicce, poi cresce, esatto. E poi, ma quello è l'inizio dei vasi, è no? L'inizio dei vasi, okay. Una specie di stampante 3D primordiale, certo, insomma. Esatto. E sì. Ma tu lavori solo con la ceramica? Ma no, ho lavorato anche con tante altre cose, con il disegno, lo so sai, benissimo. Fa la domanda. trabocchetto. Faccio una domanda come se non sapessi nulla di te. Diciamo così, allo Zauli, insomma, da Matteo Zauli ho fatto appunto queste ceramiche, perché sono, quanti sono? Dal 2012, insomma, che ho cominciato a lavorare con la ceramica, però prima ho fatto anche delle performance che riguardano. Delle performance? Sì. Tu forse non lo sai. No, sai che infatti dei tuoi performance mi sa che non ho mai visto nulla. Ho visto la foto Droste Effect dove sei travestita da. In Galleria Più. Dove sei travestita da suora. Ah, quella sulla copertina della rivista. Come si chiama la rivista? Droste Effect. Ah, giusto, si chiama Droste, chiaro. Sì. Che cretini. Ce l'ho forse la foto. Me la sono messa come foto profilo di WhatsApp. Ah, hai fatto bene. Sì, Droste Effect è questa rivista di magazine. Di arte contemporanea, loro fanno anche tanti altri servizi per l'arte, e il primo numero mi chiesero, forse era il numero zero, mi chiesero di fare la copertina vestendomi da suora, proprio come all'origine fu fatta che fra l'altro io da docente ogni tanto faccio una lezione sul Droste Effect, facendo fare un Droste Effect lo facciamo vedere ai miei studenti, ma in realtà il primo Droste Effect è stato fatto da Giotto in una pala di Giotto. Ah sì? Sì, non lo sapevo. Molto prima della scatola, perché si chiama Droste Effect perché c'era questa scatola di cioccolata in tazza che appunto aveva questa rappresentazione di questa suora con dentro, che lei teneva in mano la scatola di cioccolata, e dentro c'era la suora che teneva in mano la scatola di cioccolata, e così via. Ma in realtà il primo a fare questa cosa è stato Giotto, che in una pala, adesso non mi ricordo quale, però c'è su Wikipedia, praticamente in una pala c'è un cardinale che tiene in mano la pala stessa, in cui dentro c'è il cardinale che tiene in mano la pala stessa, eccetera. Ma quante ne sai, Stefano? Mi meravigli sempre. Ne so una più di Giffo. Ho preso appunti, Stefano. Hai preso appunti? Ok, comunque basta scrivere che Droste Effect su Wikipedia e così, e lo trovi subito. Questo è dei tuoi tempi. Biennale Giovani del Mediterraneo? No. Quella che ha fatto in Accademia. pulito con Bartorelli. Sì, viene in accademia e selezionò un gruppo di giovani. Tra cui tu. Sì. Brava. Così si fa. No, invece Leonardo ci raccontavi che hai fatto anche un disco con Luca Carboni. No, diciamo Luca Carboni. Cioè, hai fatto un quando disco. Hai messo della pittura. C'è con Diario Carboni l'album. Mi chiese una serie di immagini, di quadri che avevo sulle mappe. E poi quando ho fatto Mondo, il Mondo ha, c'è un'altra mia opera dentro, e gli avevo curato queste scenografie in cui lui aveva fatto, gli avevo fatto 7 palloni alti 4 metri che venivano gonfiati e risgonfiati, e ha portato il tour italiano, penso fosse lui, Pino Daniele e Jovanotti, mentre il tour europeo li ha portati, che c'era Ramazzotti al posto di Pino Daniele. Quindi questo penso era 1996-97, adesso hai capito, pubblicazione. E dunque sei un grande amico di tanti musicisti. No, amico, diciamo, forse c'era un rispetto sul lavoro, perché con Dalla sempre lì. Dalla non, cioè lui era una persona, a parte geniale, una delle persone più geniali che io ho conosciuto, un grandissimo intenditore di cinema, film, era appassionato, e di arte, aveva una collezione pazzesca. No, io infatti sono stato a casa sua, ed effettivamente la collezione è tuttora. Ma tu pensi che aveva 4-5, cioè, a casa a Milo, quella accanto a Battiato, alle Tremiti, era pieno di opere, opere. E a me mi ha sorpreso, che, cioè sorpreso, mi ricordo che proprio nella sua, era morto da poco, mi sa, e nel suo studiolo, in mezzo a tutti i libri eccetera, in mezzo c'era proprio sto librone su Maurizio Osti. Infatti gliel'ho detto l'altro giorno, che ho incontrato anche prima o poi il nostro professore è stato anche mio professore, ma... è stato professore di tutti, no, forse tu no, io tu no, no. Okay. No, di tecniche grafiche speciali, fantastico. Sì, io penso che lui era un bambino, cioè appena finita la scuola era già andato a insegnare. Esatto, tipo a 14 anni, siccome era ancora obbligatorio andare a lavorare, è andato a insegnare in accademia Osti. Lo salutiamo. Sì. E invece Luca Carboni, anche lui è un appassionato d'arte, o semplicemente sì, copiava lui, il maestro? No, lui disegna anche. Ah. Infatti ha fatto anche delle copertine di album, qualche suo album è intervenuto. Ah, sì? Dipinto da lui? Poi la moglie Marina ha fatto l'Accademia delle Belle Arti. Ah, non lo sapevo. Quindi... Invece la moglie di Berlusconi aveva fatto il liceo artistico a Bologna. Sì, una mia amica l'ha avuta in classe. La, com'è che si chiama? Bartolini? No, Veronica Lario, il nome d'arte. Sembrava Bartolini o Bertolini. Tu effettivamente sai tutto di tutto. È impressionante. No. Sei informatissimo. Ma di Giulia Bonora cosa sapevi prima di venire qui? Di Giulia ho detto subito, ma sei parente di Lola Bonora che faceva Ferrara? Ferrara. Ho detto non c'entriamo nulla. Sai che comunque me lo chiedono spesso. È perché piace sta cosa del figlio d'arte. No, perché a Bologna poi era un mito, no? No, andavi alla prima che ha fatto il museo dei video, no? Sì, là, sì. Come il centro studi di videoarte a Ferrara, sì. Ah. Che poi l'ho incontrata l'altra sera al Mambo. Anch'io. E ci siamo salutate, forse per la prima volta, proprio in maniera, insomma... Così, vis-à-vis, insomma. Senti, invece Stefano, scusami, noi ci siamo conosciuti... Allora, tu abitavi 2 o 3 anni fa a Zola Predosa. Sì. E io a Casalecchio. E non ci siamo mai beccati e né non alla, ci siamo mai né, mai né mai, Decathlon, mai. E poi ci siamo trovati colleghi a Torino, porta contro porta. Esatto. E tu invece con Giulia come ti sei conosciuto? Io e Giulia abbiamo fatto una mostra insieme, credo. Era setup? No, però secondo me ci conoscevamo già prima. No. Sai? a Ferrara secondo me c'eravamo già conosciuti con Yoruba. Con la Letizia Paiato e la Federica Zabarni. Mia professoressa di estetica? La Paiato, certo, anche lei era una prof di. Però è stata la mia prof, la Paiato. Anche la mia, quando ero. No, ma non sono parenti. No, questa non è parente. Questa è Maria Letizia Paiato, che dovresti conoscere anche tu. Lei scrive sul Segno e adesso sta a Pescara. Ma. La conoscerai sicuramente. Non era bionda, alta, no? No, quella era Paiato. Che insegnava estetica, che credo sia andata in pensione. E non è parente come la Giulia con Lola. No, non sono parenti neanche loro. Scrive Gifo: io sono la persona più geniale che ho conosciuto. Si vede che non ne hai conosciute tante. Comunque... dicevamo sta cosa di Zola Predosa Casalecchio, poi in realtà ci siamo conosciuti a Torino e lì dopo vi siete subito legati. Ma sì, giusto. No, perché lui, cioè il discorso è questo, che Stefano insegna una materia, ma la sua massa ispirazione è pittura. E quindi io facendo pittura, io tutte le volte che ci vedevamo su a Torino, io vedevo sempre questa faccia di... Come voleva sopprimere il posto, e quindi sono lì. Invece no, adesso abbiamo Massimo Barzagli, che salutiamo anche lui, che insegna pittura a Torino di fianco a me, e anche lui non riesco a sopprimerlo, o perlomeno non ancora, ma insomma finché c'è vita c'è speranza, no? E tu invece cosa vuoi insegnare? Anzi, tu insegni anche tu, io insegno però alle medie. Insegni arte immagine alle medie. Alle medie. Che meraviglia. Non lo diciamo perché altrimenti ho paura che Gifo venga a farti stalker. Però magari puoi salutare la tua classe che ti ascolta. Sì, tutti i miei studenti, li saluto. Sono bravi. Ma gli fai fare la ceramica? No, gli ho fatto fare il presepe in ceramica. Tutte le statuine e poi abbiamo fatto delle casette per gli uccellini da appendere in giardino. Hai capito? Però in legno? No, sempre in ceramica. Poi li tartasso un po' con l'arte contemporanea. Cosa gli fai vedere? Ma gli faccio vedere, arrivo fino ai giorni nostri. Quindi. Giustamente, fagli vedere la banana di Cattena, sentiamo cosa. No, mi chiedono di Bansi. Certo. Sì, sono sempre molto incuriositi. Marina Abramovic. Un po' di video art. Sì. Tipo? Belviola. Gliela faccio vedere. Sì. Però apprezzano più l'arte contemporanea che... Io ricordo che alle medie la mia prof mi faceva sempre vedere Tiepolo. Voglio dire, se tu fai arte immagine, puoi veramente insegnare... Dai primitivi fino a oggi Tiepolo, non so come mai, non gliel'hai mai chiesto. Eppure sono andato a fare l'accademia lo stesso. che è abbastanza incredibile. Ma tu dove insegnavi prima di insegnare pittura a Bologna e a Torino? Ho fatto 5 anni di anatomia artistica a Verona, l'Accademia di Belle Arti Verona, poi ho fatto pittura e decorazione a Genova per 9 anni. Wow! Anche tu hai una vita. Poi 2 anni a Urbino, tecniche pittoriche, 2 anni a Lecce, sempre Accademia Belle Arti a Lecce 2 anni e poi a Torino 3 anni e da gennaio sono qui precariamente a Bologna. Ma infatti è incredibile che con tutti questi anni di insegnamento sei ancora precario. Sì, sono tra poco in pensione. Ma no, dai, c'è ancora un po'. Così finalmente posso prendere il tuo posto. E da lì che volevi arrivare. Esatto. Era lì. Bene, e dunque la mostra di Faenza è visitabile fino al 18. Sì, dopodiché altri progetti, che cosa sta succedendo? Adesso io non ho alcun progetto. Me l'hanno chiesto ieri, io non ho alcun progetto, alcuna mostra c'hai la mostra dai pompieri. Allora, da Lusco a Rusco, tu sai che da luce o dalle stelle alle stalle, eccetera. Avendo questo mio pensiero sulle gallerie d'arte private, ok, lavoro in una maniera scandalosa, osterie, ristoranti, bar. Quindi sono anni. Chi ti prende? Beh, se vuoi donare un'opera a Radio Città Fujiko, sicuramente siamo contenti di averla, perché non so se hai notato che i muri sono un po' spogli qua in radio. Ci penserai. Sì. Facciamo un crowdfunding. Dovresti, quando inviti degli artisti, un disegno, qualcosa che... addirittura un ricordo, una testimonianza. Sì, una testimonianza. Hai ragione, non basta un selfie, evidentemente. Adesso vi do, guarda, qua ci dai il compito. Ho proprio qua di fianco a me un fantastico block notes che adesso vi lancio con le matite e così. Sapete che sta per finire la nostra puntata. Il mio insegnante di arte alle medie tirava certi moccoli in classe, moccoli che si scioglievano i colori a cera. Cosa vuol dire? Lo devo spiegare veramente. No, io non so cosa sono i moccoli. Moccoli sono quelli del naso. Quando era raffreddore, Stefano. Però certo. Moccoli, una moccoli forma di tirava certi bestemmia. Moccoli. Forse sono. Scusa Giffo, potresti spiegarcelo in italiano corrente? A quadretti. Quadretti, dai, fatemi. Inauguriamo questa nuova rubrica. Un disegno per Coxo Spaziale. Dopodiché, naturalmente, verrà scansionato assieme a 600. O... Possiamo a 600 fare quello piegato che ognuno fa la sua parte. Facciamo come facevano i surrealisti. Esquisiti. Sì, possiamo fare come facevano male, i surrealisti. Però bisognerebbe essere in 4-5. Vabbè, dai, accontentati, Stefano. Un cadavere esquisito in due, dai, va benissimo così. Mi sembra. Sì. Dai, facciamo questa operazione. Molto bene. Vediamo non posso far altro che ringraziare tantissimo Giulia Bonore e Leonardo Grazie. Santoli per essere venuti qui a Coxo Spaziale. Grazie a te al tuo invito. E noi naturalmente ci risentiamo come al solito al lunedì dalle 19 alle 20. E vi lascio con le solite parole del nostro direttore di radio che dice: con questo basso livello di radiofonia ascoltiamo la sigla. Pastura sembal, chao chao chao, can la pastura sembal, chao can la pastura sembal. Calla pastura se malcia, calla pastura se malcia, calla pastura se malcia, calla pastura se malcia. Mi dice Giffo che i moccoli erano le bestemmie. Grazie. A lunedì prossimo. Che regardavo, se estende, tre tre tre. Ami in berge dai se stendre. Ami in berge dai se stendre. Tre tre tre tre. Ami in berge dai se stendre. Ami in berge dai se stendre. Ami in berge dai se stendre. Ami in berge dai se stendre. L'ultima curtisado. Tira rinna la la lilla loi. L'ultima curtisado. Oh, de estas me gusta gancha. Oh, de estas me gusta gancha. State ascoltando Radio Città Fujiko. Radio Città Fujiko 103.1 FM.